Uomo e donna di Giovanni Paolo II, primo ciclo, numero 5. Il significato dell'originaria solitudine dell'uomo. Nell'ultima riflessione del presente ciclo siamo giunti ad una conclusione introduttiva tratta dalle parole del libro della Genesi sulla creazione dell'uomo quale maschio e femmina. A queste parole, ossia al principio, si è riferito il Signore Gesù nel suo colloquio sull'indissolubilità del matrimonio, vedi Matteo 19,39 e Marco 10,1-12. Ma la conclusione alla quale siamo pervenuti non pone ancora fine alla serie delle nostre analisi. Dobbiamo infatti rileggere le narrazioni del primo e del secondo capitolo del libro della Genesi, in un contesto più ampio, che ci permetterà di stabilire una serie di significati del testo antico al quale Cristo si è riferito. Oggi, pertanto, rifletteremo sul significato della originaria solitudine dell'uomo. Lo spunto per tale riflessione ci viene dato direttamente dalle seguenti parole del libro della Genesi. Non è bene che l'uomo maschio sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Genesi 2,18. È Dio Yahweh che pronunzia queste parole. Esse fanno parte del secondo racconto della creazione dell'uomo e provengono quindi dalla tradizione yahvista. Come abbiamo già ricordato in precedenza, è significativo che quanto al testo yahvista, il racconto della creazione dell'uomo maschio sia un brano a sé, Genesi 2,7, che precede il racconto della creazione della prima donna, Genesi 2,21-22. È inoltre significativo che il primo uomo, Adam, creato dalla polvere del suolo, soltanto dopo la creazione della prima donna, venga definito come un maschio, Ish. Così dunque, quando Dio Yahweh pronunzia le parole circa la solitudine, le riferisce alla solitudine dell'uomo in quanto tale, e non soltanto a quella del maschio. Nota 1. Il testo ebraico chiama costantemente il primo uomo Adam, mentre il termine Ish maschio viene introdotto soltanto quando emerge il confronto con la Ish Shas femmina. Solitario era quindi l'uomo senza riferimenti al sesso. Nella traduzione in alcune lingue europee è difficile però esprimere questo concetto della Genesi perché uomo e maschio vengono definiti di solito con un unico vocabolo homo, uomo, on, hombre, man. È difficile però, solo in base a questo fatto, andare troppo lontano nel trarre le conclusioni. Non di meno il contesto completo di quella solitudine di cui parla Genesi 2,18 può convincerci che qui si tratti della solitudine dell'uomo, maschio e femmina, e non soltanto della solitudine dell'uomo maschio causato dalla mancanza della donna. Sembra quindi, in base al contesto intero, che questa solitudine abbia due significati. Uno che deriva dalla natura stessa dell'uomo, cioè dalla sua umanità, e ciò è evidente nel racconto di Genesi 2. E l'altro che deriva dal rapporto maschio-femmina, e ciò è evidente, in un certo modo, in base al primo significato. Una particolareggiata analisi della descrizione sembra confermarlo. Il problema della solitudine si manifesta soltanto nel contesto del secondo racconto della creazione dell'uomo. Il primo racconto non conosce questo problema. Ivi l'uomo viene creato in un solo atto come maschio e femmina. Dio creò l'uomo a sua immagine. Maschio e femmina li creò. Genesi 1:27. Il secondo racconto, che come abbiamo già menzionato, parla prima della creazione dell'uomo e soltanto dopo della creazione della donna dalla costola del maschio, concentra la nostra attenzione sul fatto che l'uomo è solo. E ciò appare un fondamentale problema antropologico anteriore in un certo senso a quello posto dal fatto che tale uomo sia maschio e femmina. Questo problema è anteriore non tanto nel senso cronologico quanto nel senso esistenziale. Esso è anteriore per sua natura. Tale si rivelerà anche il problema della solitudine dell'uomo dal punto di vista della teologia del corpo, se riusciremo a fare un'analisi approfondita del secondo racconto della creazione in Genesi 2. L'affermazione di Dio Yahweh, non è bene che l'uomo sia solo, appare non soltanto nel contesto immediato della decisione di creare la donna, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile, ma anche nel contesto più vasto di motivi e di circostanze che spiegano più profondamente il senso della solitudine originaria dell'uomo. Il testo yahvista lega anzitutto alla creazione dell'uomo con il bisogno di lavorare il suolo, Genesi 2:5, e ciò corrisponderebbe nel primo racconto alla vocazione di assoggettare e dominare la terra, vedi Genesi 1:28. Poi il secondo racconto della creazione parla della collocazione dell'uomo nel giardino di Eden, nel giardino in Eden, e in questo modo ci introduce nello stato della sua felicità originaria. Fino a questo momento l'uomo è oggetto dell'azione creatrice di Dio Yahweh, il quale nello stesso tempo, come legislatore, stabilisce le condizioni della prima alleanza con l'uomo. Già attraverso ciò viene sottolineata la soggettività dell'uomo. Essa trova un'ulteriore espressione quando il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo maschio per vedere come li avrebbe chiamati, Genesi 2:19. Così dunque il primitivo significato della solitudine originaria dell'uomo viene definito in base ad uno specifico test o ad un esame che l'uomo sostiene di fronte a Dio e in un certo modo anche di fronte a se stesso. Mediante tale test l'uomo prende coscienza della propria superiorità e cioè che non può essere messo alla pari con nessun'altra specie di esseri viventi sulla terra. Infatti, come dice il testo, in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Genesi 2:19. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Ma, finisce l'autore, l'uomo maschio non trovò un aiuto che gli fosse simile, Genesi 2, 19-20. Tutta questa parte del testo è senza dubbio una preparazione al racconto della creazione della donna. Tuttavia, essa possiede un suo profondo significato anche indipendentemente da questa creazione. Ecco, l'uomo creato si ritrova fin dal primo momento della sua esistenza di fronte a Dio quasi alla ricerca della propria entità. Si potrebbe dire alla ricerca della definizione di se stesso. Un contemporaneo direbbe alla ricerca della propria identità. La constatazione che l'uomo è solo in mezzo al mondo visibile e in particolare tra gli esseri viventi ha in questa ricerca un significato negativo in quanto esprime ciò che egli non è. Non di meno la constatazione di potersi essenzialmente identificare col mondo visibile degli altri esseri viventi Animalia ha, nello stesso tempo, un aspetto positivo per questa ricerca primaria, anche se tale constatazione non è ancora una definizione completa, pur tuttavia costituisce uno dei suoi elementi. Se accettiamo la tradizione aristotelica nella logica e nell'antropologia, bisognerebbe definire questo elemento come genere prossimo, genus proximum. Il testo Iavista ci consente tuttavia di scoprire anche ulteriori elementi in quel mirabile brano, nel quale l'uomo si trova solo di fronte a Dio, soprattutto per esprimere, attraverso una prima autodefinizione, la propria autoconoscenza, quale primitiva e fondamentale manifestazione di umanità. L'autoconoscenza va di pari passo con la conoscenza del mondo, di tutte le creature visibili, di tutti gli esseri viventi, ai quali l'uomo ha dato il nome per affermare di fronte ad essi la propria diversità. Così dunque la coscienza rivela l'uomo come colui che possiede la facoltà conoscitiva rispetto al mondo visibile. Con questa conoscenza che lo fa uscire in certo modo al di fuori del proprio essere, in pari tempo l'uomo rivela sé a se stesso in tutta la peculiarità del suo essere. Egli non è soltanto essenzialmente e soggettivamente solo. Solitudine, infatti, significa anche soggettività dell'uomo, la quale si costituisce attraverso l'autoconoscenza. L'uomo è solo perché è differente dal mondo visibile, dal mondo degli esseri viventi. Analizzando il testo del libro della Genesi, siamo in un certo senso testimoni di come l'uomo si distingue di fronte a Dio Yahweh da tutto il mondo degli esseri viventi, animalia, col primo atto di autocoscienza e di come pertanto si riveli a se stesso ed insieme si affermi nel mondo visibile come persona. Quel processo delineato in modo così incisivo in Genesi 2, 19-20, processo di ricerca di una definizione di sé, non porta soltanto ad indicare, riallacciandosi alla tradizione aristotelica, il genus proximum, che nel capitolo 2 della Genesi viene espresso con le parole «ha dato il nome», a cui corrisponde la differenza specifica che è, secondo la definizione di Aristotele, nous zom neotikon. Tale processo porta anche alla prima delineazione dell'essere umano come persona umana, con la propria soggettività che lo caratterizza. Interrompiamo qui l'analisi del significato della originaria solitudine dell'uomo. La riprenderemo nei successivi capitoli.